Euroreportage. COP22. Europa e Cina insieme per gli accordi sul clima. All'ombra di Trump. Di Cristina Carpinelli. And we obviously want it to be just as personal for everyone in every room. Men, women, children, business people. Sono ottimista per i mercati, per gli impegni che il mondo del business ha assunto e che costringeranno i politici a raggiungere gli obiettivi. Investire in energia pulita è una scelta di senso economico. Nessuna nazione potrà fare meglio se resta fuori. Accolte così da un boato di applausi e di speranza le parole del segretario di Stato americano John Kerry, che ha parlato alla conferenza ONU sul clima di Marrakech, COP22, quella che tutti hanno già definito la conferenza del fare. Gli Stati Uniti e il Messico sono stati di fatto i primi due paesi a presentare alla Convenzione dell'ONU per il cambiamento climatico le loro strategie di lungo termine contro il riscaldamento globale. Gli Stati Uniti hanno presentato un percorso di riduzione delle emissioni di gas serra al 2050 dell'80% o più su livelli del 2005. L'obiettivo del Messico è invece una riduzione al 2050 del 50% di gas serra rispetto al 2000. Il piano americano si articola in tre punti: passaggio a un sistema energetico a basse emissioni di carbonio, sequestro di carbonio attraverso foreste, terreni e tecnologie di stoccaggio, riduzione di altri gas serra come metano, ossido di azoto, gas fluorati. Firme e sigilli su accordi che però dovranno tenere conto del cambio di marcia che c'è stato negli Stati Uniti. Nei padiglioni di Marrakech si parlava di Trump-fobia, strisciante paura per ipotetici roboanti annunci in negativo del neopresidente eletto americano, Mauro Albrizio, delegato di Legambiente a Marrakech. L'elezione di Trump ha nei fatti movimentato l'agenda di una COP che era considerata di transizione, dovendo discutere essenzialmente degli strumenti di applicazione dell'accordo siglato a Parigi lo scorso dicembre. Con la elezione di Donald Trump la situazione è cambiata, anche perché la ratifica anticipata dell'accordo di Parigi è dovuta alla spinta dell'amministrazione Obama. Quindi qui si è messo in discussione quale può essere il ruolo futuro degli americani. Questo ha portato al momento ad un rafforzamento del tutti gli altri partner, che si porterà ad una dichiarazione politica, la cosiddetta Marrakesh Action Proclamation, dove il messaggio che si darà a Trump è che comunque il mondo andrà avanti nello spirito di Parigi, che è irreversibile a prescindere da un paese. Questo è un segnale positivo, deve essere tradotto in fatti concreti. Stiamo assistendo anche a un'affermazione di una leadership della Cina. Per certi versi è positivo, nel senso che la ratifica anticipata dell'accordo di Parigi è avvenuta in seguito ad un accordo bilaterale alla vigilia del G20 cinese lo scorso settembre, appunto, tra Cina e l'amministrazione Obama statunitense. Sempre più nei corridoi qui di Marrakech il messaggio della delegazione cinese è che noi cinesi andremo avanti comunque, perché appunto la direzione impressa da Parigi è irreversibile. Questo è un segnale molto positivo. Adesso sta all'Europa non nascondersi più dietro la leadership cinese o americana, ma invece svolgere un ruolo attivo e riaffermare la propria leadership, che negli ultimi anni è in declino. A rincuorare gli animi, il mantra di Europa e Cina, che di fatto hanno ribadito insieme: ce ne faremo carico noi. In sessione plenaria, Miguel Arias Cañete, commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, ha dichiarato di aver blindato la partecipazione all'accordo di Parigi in termini irrevocabili, perché è quella che sta dalla parte giusta della storia. Giovanni Navia è presidente della Commissione Ambiente al Parlamento europeo ed era a Marrakech. L'Europa esce con un ruolo sempre più centrale, perché ovviamente tutti guardano all'Europa come il soggetto che guiderà ancora questo processo, visto che gli Stati Uniti hanno un po' rallentato, la Cina guarda e attende segnali dagli Stati Uniti, e diventa ancora più importante il ruolo europeo, perché l'Europa guida il processo della lotta al cambiamento climatico e si muove con decisione per mettere in pratica gli impegni assunti da tutti a Parigi. Dobbiamo essere conseguenti, è quello che stiamo facendo. A Parigi c'è stato un grande accordo che è stato ratificato e è entrato in vigore ancora prima di quanto si pensasse e che evidentemente oggi cerca di muovere i primi passi con alcuni movimenti operativi per dare le regole applicative a quello che si è stabilito. E in questa direzione ci si sta muovendo qui a Marrakesh. Ci sono tanti temi, come sempre, nelle conferenze sul clima. In particolare questa è proprio, come alcuni dicono, è la conferenza del fare, no? Si parla anche degli investimenti nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Sicuramente in questo momento, al momento in cui stiamo negoziando, il tema è ben presente di fronte a noi, perché ci sono molti paesi in via di sviluppo che premono per avere più soldi su questo fondo di adattamento. Sono i paesi che avranno degli effetti diretti dal cambiamento climatico, piccoli paesi, paesi nei quali si rischia di avere un forte processo di esodo, perché in quei paesi non ci saranno più condizioni di vita adeguate alla presenza umana. Dall'altro lato ci sono i paesi donatori che evidentemente frenano, rallentano, vogliono capire meglio il fenomeno, vorrebbero agire più in termini di spese per la prevenzione degli effetti che non pagare direttamente ai paesi in via di sviluppo. Si troverà un equilibrio, ma qui è la conferenza del fare, come ha detto giustamente lei, è il momento nel quale ci si sta sedendo attorno a un tavolo e si discute sulle misure di attuazione, perché è facile dire dobbiamo ridurre le emissioni a effetto serra, ma come lo facciamo? E allora, se da un lato si parla di far pagare chi inquina nella misura e come, con sistemi adeguati, dall'altro lato si vogliono verificare i progressi fatti, per cui deve essere un sistema aperto, cioè deve essere un sistema nel quale tutti possono verificare cosa stanno facendo gli altri, perché non è possibile che un paese o un gruppo di paesi si impegni di più e altri invece vadano a rimorchio. È come stare su un tandem, nessuno vorrebbe che quello che sta dietro non pedali. Vorremmo che tutti facessero lo stesso sforzo, perché tutti insieme raggiungeremo sicuramente un risultato migliore rispetto a quello che può raggiungere un singolo paese da solo con il massimo impegno. Sul fronte italiano, il pacchetto più corposo riguarda gli accordi coi paesi in via di sviluppo. Francesco La Camera, capo negoziatore per il Ministero dell'Ambiente. Il ruolo dell'Italia, che peraltro è stato apprezzato da tutti i nostri partner, è quello di lavorare sia sul negoziato e quindi sulla prescrizione di questi documenti tecnici approvati, sia in termini di decisioni immediatamente valide, sia in termini di decisioni procedurali, cioè su come condurre i lavori sino al passaggio importante del 2018, in cui si farà un po' l'esame complessivo di come stiamo andando. Dall'altra parte, visto che questa è la COP dell'agire, avere stretto rapporti, accordi che abbiamo firmato sei paesi africani, abbiamo sviluppato una serie di rapporti e stiamo diventando un punto di riferimento importante per quanto riguarda le piccole isole del Pacifico, Caraibi, Africa, che sono, diciamo così, le nostre priorità, dato che sono le parti del mondo che sono più soggette agli impatti del cambiamento climatico. Ecco, ma fattivamente che cosa state facendo? Gli accordi sono sui temi fondamentalmente del climate change e quindi accordi scambio di tecnologie, capacity building, presenza italiana in questi paesi, costituzione di gruppi di lavoro comune, organizzazione di gruppi di lavoro per accedere ai finanziamenti del sistema bancario multilaterale, quindi tutta una serie di attività, insomma un mondo che cambia e noi stiamo cercando di essere presenti. Quello che importa sottolineare è che stiamo avendo dei ritorni di attenzione che ci incoraggiano, insomma. Senta, si parla molto dell'effetto Trump su questa conferenza sul clima. Quanto ha agito, diciamo, questo? Chiaramente, come si chiama qui, l'elefante nella stanza, cioè non se ne parla, ma evidentemente che sono tutti un po' a pensare a questo. Ma quello che è emerso qui, guardi, la cosa che poi sai, è una prima reazione, ma tutti dicono che questo è un processo che è irreversibile, sicuramente lo è. E quindi c'è massima, come dire, determinazione ad andare ad andare avanti. Anche Kerry nel suo intervento ha sottolineato che comunque gli Stati Uniti non possono permettersi di investire un percorso che non è solo un percorso tracciato dai governi, ma è tracciato una profonda trasformazione dell'economia che è in atto anche negli Stati Uniti, così come in tutto il mondo. Quindi lui non pensa e non crede assolutamente che l'amministrazione americana possa dare segni poi di staccarsi da un processo che, anche per quanto riguarda la sua opinione, oltre a quella di tutti gli attori qui presenti, è assolutamente irreversibile. Il tema dei fondi da distribuire ai paesi in via di sviluppo è dunque un altro dei nodi importanti, ci spiega ancora Albrizio di Legambiente. Per compattare tutti i partner vicino a sostegno della Marrakesh Action Proclamation serve risolvere la questione delle risorse finanziarie, la cosiddetta roadmap al 2020. Le risorse finanziarie sono a disposizione. Lo scontro qui in atto è sulla ripartizione tra risorse destinate alla mitigazione, ossia alla riduzione delle emissioni, e risorse destinate all'adattamento ai mutamenti climatici in corso, che stanno colpendo fortemente i paesi più poveri. I paesi più poveri, per bocca dell'Unione Africana, chiedono di quadruplare gli attuali impegni, perché attualmente solo il 20% delle risorse disponibili pubbliche è a favore dell'adattamento. C'è bisogno di 50-50. Per cui dei 100 miliardi l'anno entro il 2020 da dare ai paesi di sviluppo, ci deve essere un'equa ridistribuzione 50-50. Anche questa conferenza sul clima dunque si chiude e la sensazione è che in un anno si sia riusciti a fare molto più che nei circa 20 precedenti. Tornano a casa i 20.000 partecipanti, rappresentanza di 196 stati, centinaia di imprese, ONG, associazioni di scienziati, enti locali, popolazioni autoctone e sindacati. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.